Sonatemi un balletto col mio amor voglio danzar. Sonatemi un balletto col mio amor voglio danzar. Che io prendo gran piacer nel maravil ver. Orbia che è stato a far, cominciate. Orbia che è stato a far, cominciate.